Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi, questa è Europa 24. Ci aspettiamo sforzi per le riforme, lo ha detto Olli Rehn alla plenaria di Strasburgo, mentre per Barroso torna la crescita nell'Unione Europea. Ci aspettiamo ulteriori sforzi per le riforme, rafforzare la ripresa e creare occupazione. Così il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn alla plenaria di Strasburgo. Il messaggio ai grandi paesi dell'Eurozona è stato e continua ad essere, dice, quello di una forte necessità in Italia e Francia di intensificare le riforme economiche per raggiungere la crescita, la competitività e creare posti di lavoro. Mentre in Germania c'è la chiara necessità, ha continuato, di rafforzare e stimolare la domanda interna, in particolare gli investimenti pubblici e privati. Gli ha fatto eco davanti alla plenaria dell'Europarlamento l'ottimismo del Presidente della Commissione, José Manuel Barroso, secondo il quale torna la crescita nell'Unione Europea, più 1,5% del PIL quest'anno, più 2% nel prossimo, e ha sottolineato la crescita coinvolgerà anche i paesi più vulnerabili. Barroso si è anche espresso sulla vicenda ucraina. Non abbiamo bisogno di nuove guerre fredde, certamente non le vogliamo. E poi ha detto: la nostra relazione con i vicini dell'est non vuole essere esclusiva, non chiederemo di voltare le spalle alla Russia, ma Mosca deve accettare l'idea che i paesi decidano da soli le loro relazioni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Ecofin ha dato alla presidenza greca un mandato più esteso per negoziare oggi con il Parlamento europeo un accordo sulla risoluzione unica delle banche. Oggi si vedrà dunque se un'intesa è possibile prima delle elezioni europee. Parlamento e Consiglio sono tornati a riunirsi oggi a Strasburgo per trovare un difficile accordo sul meccanismo unico di gestione delle crisi creditizie, un tassello cruciale della nascente unione bancaria. Ieri i ministri delle finanze hanno dato alla presidenza greca dell'Unione Europea un nuovo mandato negoziale in modo da avvicinare le posizioni tra Consiglio e Parlamento. L'obiettivo è trovare un accordo entro aprile. I temi controversi sono il ruolo delle autorità nazionali, il processo decisionale nel Consiglio di risoluzione, la rapidità della messa in comune delle risorse finanziarie nel Fondo di risoluzione. Mentre il Parlamento insiste per un assetto federale, i governi sono tentati dalla strada confederale. Le difficoltà dei negoziati sono determinate dal fatto che l'unione bancaria rappresenta per i Paesi membri un delicatissimo trasferimento di sovranità. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Il 92% di italiani ed europei si sono riconciliati con la politica agricola comune, che insieme alle aree rurali considerano ormai un elemento importante per il loro futuro. Non è solo per gli agricoltori, ma ne sono convinti il 77% degli europei e il 75% degli italiani. Offre benefici agli oltre 500 milioni di cittadini nell'Unione Europea. Ed è in questo quadro che a Strasburgo è andata in scena quella che potremmo definire la battaglia delle sementi. Il Parlamento europeo ha bocciato la proposta della Commissione quasi all'unanimità su proposta del Presidente della Commissione Agricoltura, De Castro. E Anna Migliorati ha sentito proprio Paolo De Castro, sostenitore della battaglia dei semi. Chiediamo di fare una nuova proposta, e questa è sempre stata la nostra idea, la nostra come Commissione Agricoltura. Abbiamo chiesto di ritirare questa proposta e di farne un'altra o più di una, perché non sarebbe stato meglio presentare più regolamenti in funzione delle diverse, completamente diverse sistemi tra i semi, le piante di propagazione, le piante forestali, prima cosa. Seconda cosa, la palla passa al Consiglio, passa ai ministri dell'agricoltura, i quali adesso potranno decidere se seguire l'orientamento del Parlamento e quindi chiedere anche loro il rigetto della proposta, o se invece i ministri preferiscono mettersi a negoziare. Ecco, la sensazione che abbiamo, almeno noi come Italia, sono certo che il ministro Martina, al pari degli altri ministri francesi, Stéphane Le Foll, Cagnetti e altri, sicuramente c'è una forte criticità, per cui si andrà nella direzione, io credo, ma questo è, bisogna chiederlo al Consiglio, di rigettare la proposta. È tutto per Europa 24. In studio vi ha parlato Daniele Biacchiesi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.